alcune persone che, vivendo in un quartiere come il nostro, col tempo si sono allenati anche all'apertura, nel senso al cercare di capire l'altro e di trovare un modo di comprendersi e di rispondere e di comunicare. E non conta più se sei nero, se sei bianco, se sei velata, se non lo sei, non conta. Diventa proprio un senso di comunità nel vero senso del termine, cerchiamo di. Poi c'è un'altra fetta di persone, e questo però è rappresentativo di qualunque quartiere o società, cioè la percentuale di chi ascolta e fa lo sforzo di comprendere, di comunicare, di venirti incontro, tra genitori di una scuola. Questo avviene? Sì, perché c'è un conoscersi, un aspettare insieme, un crescere insieme i figli, una fatica anche di organizzarsi tra avere altri figli oppure lavorare, oppure, e quindi si creano delle relazioni e dopo non ti interessa che quella signora si chiami Fatima, che sono i genitori del compagno di tuo figlio, di tua figlia. E noi diciamo sempre che i ragazzi che seguiamo non sono nostri, non sono della parrocchia se vanno in parrocchia, sono di una società o di una comunità, chiamatela come volete, ma non sono nostri. E questo dovrebbe essere un discorso di coinvolgimento delle persone, poi se non si vuole coinvolgere fa lo stesso, ma però è questo il senso, è questo qui, sono di tutti.